anche uno che non ha mai chiesto niente a nessuno come me, ha bisogno di qualcuno con cui parlare la sera quando non può dormire, di una guancia da baciare, di capelli da carezzare. Anche uno che non ha mai chiesto niente come me. Anche uno che non ha mai chiesto niente a nessuno come me, ha bisogno di un po' d'aiuto dalla gente intorno a sé, di ricordi da spartire, di qualcuno da ringraziare. Anche uno che non ha mai chiesto niente come me. Uno che non ha mai paura, quasi mai, che è un po' lo stesso, che ha paura solamente di arrendersi proprio adesso. Anche uno che non ha mai chiesto niente a nessuno come me, ha bisogno di qualcuno con cui parlare con gioia senza malinconia, qualcuno di cui possa fidarsi che non se ne andrà mai via. Non ha mai chiesto niente come me. Uno che non ha mai paura, quasi mai, che è un po' lo stesso, che ha paura solamente di arrendersi proprio adesso. Che ha paura solamente di arrendersi proprio adesso. Anche uno che non ha mai chiesto niente a nessuno come me, ha bisogno di un po' d'aiuto dalla gente intorno a sé, di ricordi da spartire, di qualcuno da ringraziare. Anche uno che non ha mai chiesto niente come me. Anche uno che non ha mai chiesto niente come me. Anche uno che non ha mai chiesto niente come me.